Parlo a nome dei docenti che fanno riferimento al gruppo partigiani e partigiane della scuola pubblica. Siamo qui a portare la nostra solidarietà all'occupazione dell'ex Telecom, che abbiamo seguito, perché noi riteniamo come partigiani e partigiane che tutti coloro che lottano per i diritti debbano unificarsi in un unico movimento di lotta. Noi lottiamo per il diritto allo studio, ci siamo costituiti dopo l'approvazione della legge Renzi-Giannini, la legge famigerata, detta della buona scuola, che ha distrutto la scuola pubblica. Noi combattiamo per il diritto allo studio e vogliamo essere al fianco di chi combatte per il diritto alla casa, per il diritto al lavoro e per il diritto alla salute. Siamo per unificare tutti i movimenti. Noi ci siamo costituiti subito dopo l'approvazione della legge al Senato. Noi eravamo al Senato quando la legge è stata approvata e abbiamo urlato di dolore e di rabbia al Senato contro questa legge che ha ucciso la scuola pubblica. Siamo stati a Montecitorio, siamo stati tra i promotori di un corteo non autorizzato in piena estate dei docenti che ha paralizzato la città di Roma. Abbiamo dato l'indicazione e abbiamo praticato l'assedio nei confronti di coloro che hanno assassinato la scuola pubblica, la senatrice Puglisi, il ministro Giannini, Faraone, Campione. Siamo andati a tutte le feste dell'unità per fare controinformazione, per dire che questa gente ha assassinato la scuola pubblica. Siamo stati a Ferrara insieme ai docenti ferraresi, abbiamo cacciato la ministra Giannini da Ferrara, città medaglia d'oro della Resistenza. Proponiamo a tutti i movimenti di praticare queste tecniche di lotta, di assediare i responsabili della cancellazione dei diritti, assediare il sindaco, assediare gli assessori, assediare tutti coloro che sono responsabili della cancellazione dei diritti.